cerco strade nuove. E quanti dubbi ho, non mi fanno dormire. Luci rosse che non mi fan passare. Stanco dei perché che mi han fatto male. Io cerco strade libere dove sorpassare le mie paure, i limiti delle mie emozioni. Piacere che vuoi.